Tanto buongiorno e buon anno a tutti, visto che era un po' che non ci vedevamo. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. No, beh, la pressione, è chiaro che la pressione ci può essere magari più dell'inizio, perché all'inizio magari nessuno pensava che noi oggi potessimo essere qua, oggi ci potrebbe essere un po' più di pressione, ma questo credo sia una cosa abbastanza normale. Ricominciamo! Io non posso restare seduto in disparte, né arte né parte. L'equilibrio c'è stato fino a questo momento, nelle ultime 7-8 partite l'equilibrio non c'è stato perché la Juventus sta marciando in maniera diversa da tutte le altre squadre. Io faccio l'allenatore, quindi per quanto mi riguarda ti dico che l'equilibrio va rotto lavorando di più, meglio e migliorando di più. Ricominciamo. Sono arrivato con la stessa attitudine di lavoro, abbiamo lavorato bene e anche in quantità, su un buon volume, e adesso speriamo che ripartire bene. Ricominciamo. Siamo in ritardo di 3 punti alla prima, mancano ancora 2 giornate alla fine del girone d'andata, vedremo come si concluderà il girone d'andata, però dobbiamo essere consapevoli che da qui alla fine del campionato bisogna sbagliare il meno possibile perché non abbiamo più tempo per recuperare. Io già vi l'ho detto, è la verità, io parlo molto spesso con i miei dirigenti, sia il presidente, sia Walter, sia Mauro, e non ho bisogno di una uscita pubblica di uno di loro in questo senso. Io sto lavorando per il bene della Roma, per vincere, perché è l'unica cosa che mi motiva e che mi piacerebbe. Si ricomincia! Ma finalmente, per fortuna, la Befana ci riporta il campionato. Ciao Pierluigi Pardo, buongiorno. Ciao, a te e a lunghe le ragazze, eh? Le fatte lunghe quest'anno, eh? Lunghissime, anche ti troppo. Sei mancato. Siamo in astinenza da calcio, questo è normale in questo periodo della roba assurda, guarda. Ieri sera ho guardato il derby di Genova come un arrapato vero, senza perdermi neanche l'intervallo. Devo dire che la partita ha aiutato, è stata bellissima, soprattutto poi con il quasi ribaltone finale, insomma è stata veramente una grande partita e quindi ci ha aiutato. Ma penso che se anche fosse stato 0-0 l'avremmo divorata con capolo d'entusiasmo comunque. Sì, intanto c'è Udinese-Atalanta in questo momento, è 2-1 per l'Udinese, con l'Atalanta che ha riaperto la gara dopo i gol nel primo tempo di Terò e l'altro non me lo ricordo. Intanto ha segnato l'Atalanta con il 2-1 con D'Alessandro. Perizza, mi confondevo con Perisic, per quello che non lo volevo dire. Vediamo chi è all'ascolto e non sta dormendo o mangiando l'ennesimo panettone. 800 24 00 24, numero verde SMS e WhatsApp 349 238 6666. Lo scorso anno, ti ricordi, la Befana ci portò anche le mille polemiche di Udinese Roma, giusto per la cronaca, speriamo di evitare a sto giro. No, sì, speriamo che capiti in caso a un altro telecronista, facciamo così, ma un po' per uno. Nel senso, l'anno scorso fu una roba, vi ricordate, no? Abbiamo chiamato l'associazione Geometri, l'ordine Geometri, delle proiezioni ortogonali, fu un caso assurdo, veramente al limite. E tu eri lì, mi ricordo bene, eri lì a raccontare quella parte. Che culo! Sì, con annessa ora di discussione attività, che appunto con le proiezioni ortogonali, il pallone, la simulazione, la tecnologia, però insomma diciamo, quella situazione lì poi in qualche modo secondo me ha ulteriormente contribuito alla tecnologia, no? quindi alla fine ha avuto un aspetto certamente positivo. Intanto abbiamo sentito nella copertina iniziale, a proposito, Giorgio De Luca, nostro dottore, torna anche lui oggi, Gianmarco Ferronato in regia, abbiamo sentito la vigilia degli allenatori delle Big. Mancini, normale avere pressione in questo momento, Sarri, la Juventus sta marciando più forte di tutti, Paolo Sosa, speriamo di ricominciare bene, Allegri, ci mancano tre punti per il primato, e Garcia che invece è tuttora tra coloro che sono sospesi, perché questo è uno dei casi del momento, no? Tutti dicono: ma guardate che rischia, guarda che rischia. Lui dice: no, non mi importa, non ho bisogno di conferme da parte della società, mi sento saldo al mio posto, eccetera, eccetera. Poi oggi vediamo, stasera vedremo. E poi, per quanto riguarda invece la cronaca stretta, seguiremo naturalmente la prima mezz'ora delle partite, oggi non da come sempre, come ogni giorno, fino alle 15.30, quindi alle 15 va ad iniziare il grosso del programma delle partite. Per quanto riguarda le ultime di formazione, De Rossi non gioca, a proposito di Roma, Umar Sedic al suo posto, non gioca Toni perché ha l'influenza contro la Juventus, che tra le grandi è l'unica che gioca in casa. Per quanto riguarda la stessa Juve, ci sarà Morata accanto a Dybala e non Mandžukić, e poi varie ed eventuali che vi ricorderemo più tardi. 800 24 00 24 è il numero verde. Vi posso già domandare: ma secondo voi oggi chi rischia di più tra le grandi? Traffico. Il signor Pardo è pregato di cambiare telefono. Tutti convocati. Convocati. Pensato di non vincerla alla fine? Non penso mai in negativo, sono un uomo positivo, sono come Giovanotti, io penso positivo, positivo, positivo, la conosci la canzone? Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io penso positivo perché sono vivo e finché sono vivo niente e nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Niente e nessuno al mondo potrà fermare quest'onda che va. Pensava positiva, aveva ragione in questo caso, presidente Ferrero. Ieri sera abbiamo visto una grande Sampdoria per un'ora, cioè una Sampdoria praticamente perfetta, Pierluigi Pardo. Il Genoa da Pier, ci sei? Sì, ci sono. Abbiamo visto una bellissima partita, una grande Samp che ha meritato di vincere sicuramente, in quanto ha funzionato meglio, è certamente più squadra. Poi parliamo anche di quello lì, quello di cui si parla molto in queste ore. Dimmi del tuo amico, dai. Sono contento, non sono particolarmente sorpreso, perché poi i piedi ci sono sempre stati e ci saranno ancora. Quello che c'è di diverso, che in qualche modo si era già intravisto a dicembre, è una condizione fisica nettamente migliore. E poi la condizione fisica fa sì che ci sia voglia, la voglia aiuta la squadra e si può intestare un cortocircuito positivo. Insomma, la carriera di Cassano sarà sempre così. È stato uno che ha regalato sempre sorprese in positivo e in negativo, nel senso che nei momenti migliori. Beh, ma dalle parole mi sembra che abbia anche ritrovato fiducia, no? Si sente di nuovo giocatore di calcio, si sente di nuovo al centro del villaggio, come disse un giorno Garcia, non una chiesa, ma Antonio Cassano. Sono convinto che farà bene, sono convinto che farà adesso dei mesi molto positivi, non ho dubbi. Anche perché nella testa comunque c'è ancora il sogno, no, di poter riacciuffare la nazionale. È una cosa che mi confidava, ma ha confidato tante volte anche nei momenti più difficili, più complessi. Dopo una partita come quella di ieri, è chiaro che un minimo. Ma è lunga, è difficile, ed oggi adesso spero non tolga la testimonianza di nozze, ma oggi, ad oggi non è ancora meritata, nel senso che stiamo parlando di un giocatore che certamente non. È stato troppo incostante, ancora troppo presto. Però ha neanche avuto molto campo, per la verità. Ma infatti. Ma il paradosso di Cassano è sempre questo, anche perché lui può star fermo 3 mesi, può non giocare, poi torna e se sta bene fisicamente uno che fa la differenza. Quei piedi lì ce li avrà finché campa. Il problema è la condizione fisica e anche la disponibilità di calarsi comunque all'interno di una squadra, come ha fatto ieri sera magnificamente nel derby. Ieri è stata una serata importante perché i derby sono importanti in assoluto per uno come lui, lo sono sempre stati in maniera particolare. È un giocatore che stava cercando più volte dal Genoa, non si è mai andato per una forma di rispetto della Samp, che ormai è la sua squadra adottiva. Ieri ho rivisto un'atmosfera, una situazione, una prestazione da Cassano del primo periodo alla Samp, quale era il leader. Il trascinatore. Detto questo, con lui nel bene e nel male bisogna sempre considerare l'imprevisto, quindi potrà anche succedere magari che adesso fa 2 mesi benissimo e poi fa la cassanata, perché lo sappiamo, perché la sua storia è così. Però insomma credo che sia in ogni caso una bella notizia averlo rivisto così. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Non soltanto per chi è suo amico. No, più che altro perché ci siamo perché è un giocatore che ti fa divertire. Abbiamo in linea un amico. Scusate il gioco di parole. Andrea D'Amico, buongiorno. Ciao, ciao, buon anno, buongiorno. Buon anno, uno dei primi. Buona epifania, quante cose oggi. Buon un sacco di cose, soprattutto buon ritorno del calcio, Andrea. Io e Pardo ce la stavamo raccontando, sinceramente, non ne potevamo più. Le vacanze natalizie sono dannatamente lunghe, per chi... Per fortuna. Io giocherei anche il giorno di Natale, fosse per me. Io la vedo all'inglese, all'americana. Io alla mezzanotte del 25, secondo me. No, invece io penso invece che sia più una questione di qualità, perché l'offerta esagerata, però con una qualità non elevata, poi crea disaffezione. Io credo molto invece nelle cose... la qualità, quindi spero sempre di vedere di più partite belle, interessanti, coinvolgenti, con stadi pieni. Vi ascoltavo in silenzio quando parlavate del derby di ieri, e vedere il derby di Genova è sempre molto emozionante dal punto di vista ambientale, da parte dei tifosi, della coreografia e anche dallo spettacolo che riserva sempre questa partita. Senti, cosa ne pensi? Pierluigi, conosciamo i suoi rapporti privilegiati speciali con Antonio Cassano, ma cosa ne pensi della partita di ieri? Un lampo nel buio, o può trovare continuità, o può tornare al centro di questo progetto, eventualmente al centro di questo campionato come giocatore importante? Ma guarda, io penso che qui giocatori come lui devono essere messi in una condizione psicofisica per sentirsi dei leader. Lui fa qualità da solo, con lui come tanti altri, anche in altri ruoli, come può essere stato Toni a Verona in questi ultimi due anni. Giocatori che anche quando vengono considerati finiti, ma sono campioni dentro, nei piedi e nelle qualità che hanno a livello sportivo, devono sempre sentirsi al centro di un progetto, devono sentirsi i leader. Se l'allenatore ha questa umiltà psicologica, questa abilità di farli sentire dei leader, beh, ti deliziano sempre. Se li fai sentire dei giocatori qualunque, li perdi. È un po' quello che sta facendo anche Borriello quest'anno. Borriello sta bene, vuole andare agli europei, vuol dimostrare di essere ancora il bomber che comunque a mio avviso è uno dei più forti in Italia, però per fare questo deve avere continuità e sentirsi un leader. È successo a Giovinco anche lo scorso anno, momento stesso in cui gli dai continuità, lo fai sentire un leader, quelli che hanno la qualità te li pagano. Ma Giovinco ci crede, sappiamo che Andrea D'Amico è procuratore di Giovinco, sta pensando agli europei, e in che modo sta pensando agli europei? Conta di prendere gli europei, di prendere il volo dall'America, dal Canada? Ma guarda, Conte lo conosce benissimo, per cui non c'è bisogno che sia qui. Non c'è assolutamente bisogno che sia qui, e basta solo che lui faccia come ha fatto nell'ultimo anno, e penso che poi dopo le decisioni del CT della nazionale non abbiano bisogno della sua vicinanza, perché comunque ormai si segue tutto in maniera globale, anche perché pensate a tutti i giocatori che giocano in Italia, che fanno parte delle selezioni di tutto il mondo, e poi dopo ce li ritroviamo magari campioni d'Europa, campioni del mondo a più riprese. Non è che gli altri CT non viaggiano, non si informano. Se dovessero convocare solo quelli che giocano nelle leghe così di provenienza, probabilmente non potrebbero convocare nessuno. Ormai il mondo è diventato piccolo, con la tecnologia e con i viaggi veloci si può veramente controllare tutto. È il compito di un allenatore, del suo staff, e di monitorare in giro per il mondo i giocatori più interessanti. Questo è vero, però Pierluigi, abbiamo detto un sacco di volte che insomma la lontananza e la distanza possono essere preclusive in qualche modo. La lontananza, sai, che è come il vento. No, io sono d'accordo con quello che dice Andrea, però, e questo è un complimento che ho fatto a Giovinco, io credo che ci abbia messo anche nel suo, nel senso che comunque quel tipo di scelta, anche se Andrea ci potrà raccontare per mezz'ora tutta la crescita oggettiva, per certi versi straordinaria, del calcio in Nord America, veramente ormai con dei livelli di professionalità e di strutture magnifici, però insomma sembrava una scelta, o rischiava di essere una scelta che poteva in qualche modo allontanarlo, e lui ha fatto qualcosa di straordinario. Cioè, è vero quello che dice Andrea, secondo me, sul fatto che oggi chiaramente il mondo è più piccolo, la tecnologia, Conte è uno chiamato, per cui si figurati se lo perde dai radar. Ma è anche vero che quel rischio in parte c'era, e però Giovinco ha fatto cose straordinarie. Certo, forse il primo esempio di giocatore emigrato fuori dall'Europa in un campionato tra ancora periferico, sia pure in grandissima crescita, pieno di soldi, e che è riuscito a rimanere pienamente nei radar perché ha fatto cose abbagliate. Questo è passato, penso alle esperienze cinesi, per esempio, di Diamanti o di altri, non è avvenuto. Certo, questo è chiaro, ancora più periferici, eh? Il campionato cinese è molto più periferico, nonostante sia stato abitato da alcuni dei nostri favoriti. Mentre Andrà D'Amico è sempre con noi, Giorgio da Milano, il primo ascoltatore di oggi. Buongiorno, dica, buongiorno. Buongiorno a tutti. Io chiedo a voi un'informazione. Ho visto le preformazioni di oggi per le partite che iniziano fra poco e ancora non vedo Rugani in campo malgrado l'infortunio di Barzagli. Io onestamente Rugani l'ho visto giocare all'Empoli solo in televisione e quindi non vale, perché poi un giocatore va visto allo stadio. Sì. Però mi è sembrato, insomma, valido quantomeno quanto Cáceres. Non capisco sinceramente perché non abbia mai la possibilità di giocare. Tutto qua. Allora io giro questa domanda ad Andrea D'Amico. Ma guarda, è troppo semplice rispondere a questa domanda, perché comunque ogni allenatore ha la sua visione personale, ma soprattutto gli allenatori vedono i giocatori tutti i giorni, quindi comunque io sono convinto che Allegri prenda le decisioni per il bene della Juventus e quindi si è deciso Andrea, di non farlo giocare. Questo non c'è dubbio, Rugani è un talento, si dice che Rugani e Romagnoli possono essere il futuro della coppia della nostra nazionale per quanto riguarda i difensori centrali. Abbiamo usato molti splendidi aggettivi per lui e ha ragione l'anno scorso quando era ad Empoli. È curioso vederlo sparire in fondo alla panchina, questo è curioso e domando anche, non è pericoloso anche per la crescita del giocatore? Ma guarda, forse sì, però ci occorre anche a volte un po' di pazienza. Adesso comunque lui può essere al centro anche di congiunture di mercato, quindi bisognerebbe sapere qual è la sua reale situazione mercantile, se magari è al centro di possibili movimenti o no, che possano condizionare il suo utilizzo in campo immediato. Però detto questo, sono d'accordo con te quando tu dicevi i giovani devono giocare. Per me, quando uno è giovane e forte, nella scelta va comunque preferito il posto dove c'è un allenatore che ti garantisce una continuità, perché così hai la possibilità di crescere, di far vedere quello che sai fare, piuttosto che andare magari in realtà blasonate e dover scaldare la panchina. Perfettamente. Quindi, d'accordo. Dal mio punto di vista è sempre meglio giocare. Pierluigi, da chi ti aspetti il colpo di mercato? Così poi lo facciamo dire ad Andrea D'Amico. Ma me l'aspetto parecchi. Te l'aspetti parecchi? Ma sì, io penso che si muoveranno tutte, magari utilizzando più gli strumenti del prestito, dei ricchi, sì, di scatto, del ripagherò, eccetera. Però a parte che mi sembra che siano tornati, questa è una tendenza, l'abbiamo detto mille volte nel mercato scorso, mi sembra siano tornati i soldi, non so se sia il contratto televisivo, se ci siano altre logiche, però insomma sicuramente da quest'estate è cambiato qualcosa dal punto di vista del cash, della liquidità nelle casse delle società italiane, perché le quotazioni sono cresciute, questo è oggettivo. Poi sappiamo che alcune quotazioni sono anche un po' virtuali, perché poi è ovvio che se io vendo a te, se ci vendiamo due cose, io ti devo dare due, ce le scambiamo, io ti do 20 e tu mi dai 18, possiamo dire che io ti do 20 e tu mi dai 18 e alla fine io ho sempre dato due, tanto così per semplificare. Però c'è una crescita, dai, rispetto all'estate scorsa, evidente. Quindi qualche soldo c'è, c'è un campionato equilibrato, sì. Quindi questo fa sì che aumenti l'appetito. Certo, chiaro. Penso che chiaro, è un campionato chiaro, che chiaro. Possono sognare di vincere in 5 in questo momento, proprio in grandissima serenità, a pienissimo titolo. Quindi i movimenti ci saranno e penso che tutte si muoveranno, tutte e 5 le big faranno qualcosa. Il Milan faranno qualcosa. E poi, come sempre nella vita, bisognerà decidere, anche perché poi raramente a gennaio riesci a fare il colpo che ti cambia davvero qualcosa. Andrea? Sì, avete visto la classifica, è veramente cortissima, sia per cercare di vincere o di centrare l'obiettivo economicamente più importante che l'entrata in Champions, sia per cercare di non retrocedere, quindi evitare quello che può essere equiparato a un fallimento non solo sportivo ma anche economico a volte. Certo. E quindi tutti faranno di tutto per cercare di migliorare le proprie squadre. Io mi aspetto comunque dei colpi che possono essere tanti a livello quantitativo o pochi ma di alta qualità. Sono convinto che nonostante tutti adesso cerchino di simulare, perché quando senti gli operatori e i direttori sportivi dicono non devo fare nulla, chiunque ha in canna un colpo pesante. Sono sicuro che l'Inter davanti farà qualcosa, perché comunque non può rischiare che se ha Icardi viene un raffreddore di non avere delle alternative, o comunque cercherà di rimpinguare il fronte d'attacco, mentre sono convinto che soprattutto la Roma cercherà di fare qualcosa in difesa e la Lazio già l'ha fatto, insomma tutte le squadre. Il Milan mi aspetto dei colpi un po' da tutti, ecco. Per cui ci saranno sia scambi che magari acquisti, prestiti. Come sempre sarà un mercato di riparazione molto movimentato, sì, anche con uno scenario diverso, che comunque sono, come abbiamo detto prima all'inizio della telefonata, gli Stati Uniti, che cominciano da domani la selezione dei migliori giovani, che concluderà fra 10 giorni il draft a Baltimora. Stanno diventando un mercato sempre più appetibile, e il 2017 vedrà anche la nuova franchigia di Beckham a Miami. E quindi io mi aspetto una diaspora di calciatori importanti ancora verso quelle destinazioni. Grazie Andrea. Grazie a voi. Grazie ad Andrea D'Amico. Buon anno ancora. Ci fermiamo per la borsa e torniamo subito. Torniamo subito. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Certo che siete tutti convocati anche oggi, giorno dell'Epifania, giorno in cui torna massicciamente il campionato, alle 15 la gran parte delle gare. Luciano da Siracusa, buongiorno. 800 24 00 24, buongiorno. Sì, buongiorno. Innanzitutto auguri a voi per una buona stagione. Ah, ma auguri anche a lei. Auguri anche a lei. Per tutto. Senta, quanto. Ci dobbiamo parlare a proposito di Cassano. Sì. Ora, D'Amico ha detto quello che ha detto. Io stamattina leggevo sul giornale, anche ieri sera, che il signor Cassano, dopo che ha fatto quello che ha fatto, chi non mi capisce non capisce niente di calcio, c'è scritto. In Italia siamo rimasti io e Totti, e via dicendo, ma queste cose non vanno dette dopo 2 mesi di alto rendimento. Praticamente ieri ha fatto quello che altri giocatori fanno normalmente tutte le domeniche. Non so cosa ne pensate voi. Sì, ma sappiamo anche qual è l'ego di Antonio Cassano, sappiamo anche come avesse una gran voglia di tornare ad essere protagonista, sappiamo anche come non sia l'unica volta in cui ha avuto dichiarazioni di questo tipo. Detto questo, se una partita non basta, certamente, come dicevamo prima con Pierluigi Pardo, però se Cassano sta bene fisicamente, i piedi rimangono quelli vita natural durante, se Cassano sta bene fisicamente e ha voglia di calarsi di nuovo, al centro del villaggio, di essere parte dunque di questa Sampdoria, credo che possa diventare un giocatore importante. Ora io sinceramente agli europei con Cassano faccio fatica a pensarci, perché per mille motivi, però io riesco a pensare ad un Cassano ancora protagonista del nostro campionato, perché la Sampdoria già è una squadra con ottima qualità. È chiaro che con un giocatore così, se sta bene, la qualità aumenta, e allora si possono divertire senza grandi obiettivi probabilmente, ma si possono certamente divertire quelli della Genova blu cerchiata. Quelli della Genova rosso-blu invece li ho visti parecchio in difficoltà, soprattutto dal punto di vista qualitativo. Ieri non c'era Perotti, che è infortunato, si dice che possa andare alla Roma. È un Genoa che non ha la qualità necessaria in questo momento per competere. È un piacere salutare il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e fargli complimenti. Pronto? Pronto. Pronti? Presidente, buongiorno. Buongiorno a lei. Come lei andiamo? È di Brescia? Io no, non sono di Brescia. Sono... E di dove? Io sono di Castelpo Sterlengo. No, lì vicino, di Pavia. È Tortucchio. Che Pardo sia di Roma, invece, non c'è dubbio alcuno. Non ci sono dubbi, no, Presidente, Pardo, complimenti. Pardo auguri. Di Chiavari, abita Rapallo. Abita Rapallo, Pardo? Sì. Ah, ecco perché non lo vedo. Ci vado spesso, devo dire la verità. Ma com'era, ragazzo? A mangiare a Chiavari. Sto tutto, sono a dieta, Presidente, un inizio di anno. Dai, come stai, Pardocchione? Sto a dieta, Sto a dieta, perché l'altro giorno mi sono posizionato sulla bilancia e la bilancia ha cominciato a urlare: quanti siete? E quindi a quel punto ho deciso che bisognava fare. E tu hai detto, non c'è nessuno. Tu la sei a Barzelletta del Verero? Allora, no. Io vado a casa della mia moglie, vado a casa di Manuela e busso alla porta e lei da dentro mi dice: non c'è nessuno. Io da fuori dico: meno male che sono venuto. Complimenti, è molto delicato. Senta, ma la dieta di Cassano come va? Che gli date da mangiare? L'ho visto bene ieri, fagiolini. Ma credo che lui lo guarda il cibo adesso. Lo guarda, non lo mangia. Fa un gioco di specchi, fa. Ma io ho visto veramente in forma, perché ha voglia di... Lui, essendo un grande uomo, ambizioso, e dato tutti dicevano che era un ciccione, adesso lui vuole la sua rivincita, ha voglia di fargli vedere che Cassano c'è. Ci ho parlato prima, era molto contento, perché ieri me lo sono baciato, gli ho detto che... Oh, fammi sto regalo, no? Allora prima mi ha chiamato, dice: va bene, presto, sto bravo. Perché Cassano è un monello, ma è molto professionale. Sì. Come tutti i cavalli di razza, signori miei, hanno bisogno di un fantino. Mm-hmm. E lui fino adesso ha avuto sempre dei fantini un po' così, eh? Sì. Ma Montella, c'è stato un momento in cui ha pensato, ricordiamo che l'inizio di Montella non era stato semplicissimo. C'è stato un momento in cui ha pensato: ma chi me l'ha fatto fare? Insomma, Montella non si discute come allenatore, però l'inizio non è stato semplice. Io ho voluto Montella da un anno e mezzo, lo seguo, dato che lo conoscevo, da quando c'era Sinisa, no? Proprio per Sinisa, a metà campionato, io chiamavo Sinisa per non farlo in gelosia, dice: guarda che sono a cena con Montella, e gli facevo la corte come la grande gnocca, no? Perché per me Montella è una bella gnocca. Bella gnocca dell'allenatore, sono d'accordo. E a forza di rompere le scatole, alla fine, come tutti quanti le grandi, grandi personaggi, mollano, no? O per stanchezza, o per lusinga, o perché chi chiama Pardo, ammollano. Non ha questo potere, presto. Presidente, ma si può vendere il capitano a questo punto? Chi è il capitano? Soriano. Io ho fatto una fiction, si chiama il capitano, ma era un finanziere. Mm-hmm. No, quello della sua squadra, quello che ieri ha fatto due gol. Dare moneta a vedere Cammello. Ah, dare moneta. No, farti scherzi, lui ha una clausola eccezionale. Come idea io non lo voglio vendere, non ho dovuto vendere, io non voglio vendere nessuno. Perché venendo dal cinema, il cinema ha insegnato che bisogna contrattualizzare tutti i tuoi bravi. Così almeno tu fai solo due successi e gli altri ti guardano. Così per il calcio, no? Come idea non lo voglio vendere, però come la legge del calcio, magari c'è una clausola eccezionale che l'altra volta non l'ho ignorata perché non ero un esperto e allora ci sono riuscito a non vendere. Adesso c'è una clausola eccezionale che va rispettata. Se il ragazzo poi vuole rimanere, io sono felice di abbracciarlo tutti i giorni. Ma se ne va, ognuno va dove gli pare, no? Ognuno va dove gli pare, mi sembra giusto, Pardo. Ma fra i due, più incredibile, Vero o Soriano? Fra i due, che Dio, non ho capito, Lombardino, amore mio. Chi è più incedibile, Vero o Soriano? Chi è più incedibile dei allora, due? Allora, se parliamo di incedibilità, mi è venuta bene? Sì? Sì, benissimo. Sono tutti incedibili. L'unico che posso vendere è Pardo, che se lo comprerò subito. non voglio fare l'errore che ho fatto l'altro anno con Gabbiatini. Io penso che a gennaio non si deve vendere nessuno. Io penso. Se hai un progetto, se hai una voglia di arrivare a qualche parte, comunque vada, quale sia l'obiettivo, a gennaio il mercato non si vede. A gennaio ti devi rafforzare con un paio di elementi e poi vai a asfaltarli tutti. È un errore vendere a gennaio per me. Sì, questo è vero. Comunque i tifosi possono stare serenissimi sulle condizioni di salute della Sampdoria società, vero presidente? Che ha detto? Scusa, sto al ristorante, non capisco niente. No, non c'è problema. Dico, i tifosi comunque, al di là di cessioni eccellenti più o meno reali, i tifosi possono stare tutti tranquilli sulle condizioni della salute della società Sampdoria. Ma mica siamo andati mai all'ospedale, uh-huh. No, siamo tutti quanti il certificato di sana e robusta costituzione, perciò non vedo sta domanda a che serve. Mm? Senta, ma Checco Zalone le piace? Che? Checco Zalone. Perché è il momento dei grandi baresi, da ieri sera si è unito anche Cassano, il momento della pari. Ma Checco è un fenomeno italiano che finalmente è uscito fuori. Io Checco lo conosco da sempre, e come tutti quanti, è come i calciatori, no? C'è quello lì, è una sega, non vale niente, mai niente, poi esplode e tutti quanti vanno a pensare a quello, no? Che qua è il Messi del calcio, no? Mi piace sì, perché sta nei miei cinema in cassa un sacco di soldi. C'è chi chiede se si aspettava lei le difficoltà che Sinisa sta incontrando al Milan. Io me l'aspettavo? Sì. Ma Sinisa è un grande allenatore. È una persona seria, un grande lavoratore, è un uomo molto particolare, ha un carattere tutto suo, abituato con me in Sampdoria, che eravamo un'isola felice, andare a giocare al Milan, dove c'è il padrone, non si vede ma si sente, è un'altra realtà, no? Sì. Presidente, un'ultima cosa, dica qualcosa di bello sul Genoa, che ieri sera io non ho visto benissimo. Devo dire di bello sul Genoa? Sì. È una bella città. No, Genoa squadra. Genoa. Io ieri no, i suoi avversari non li ho visti molto bene. Ma per me, ragazzi, per me Genoa è una grande società. Però il calcio, capito, quando prendete 2000 qualcuno, so cavoli. Ma guarda, non ho detto la parolaccia, basta, vedi, sai perché? No, perché no, c'è no, Manuela. No. C'è mio moglie Emanuela che mi grida, oggi devo essere educato. Perfetto, ma dove siete? Facciamo un po' di voyeurismo, dove siete a pranzo? Adesso siamo a pranzo in un ristorante, dove? Scusa, come ti chiami? È il proprietario di San Giorgio, l'arcane juventino e è genovano. Ah. Speriamo che c'ha velena. Va bene. Grazie presidente, buon appetito. Grazie, auguri, buon anno. Buon anno. Ti voglio bene. Salutate Massore, sempre. Grazie presidente Ferrero. Ciao. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Anche oggi il giorno dell'Epifania, tutti convocati 800240024, mentre stiamo aspettando l'inizio delle partite del pomeriggio, mentre l'Udinese ha battuto 2-1 l'Atalanta. Nando Orsi, buongiorno. Buongiorno, auguri, buon anno, buone feste, buona Befana, buon tutto. Buon tutto, soprattutto buona ripresa del campionato. Buona ripresa del campionato. È cominciato bene il campionato, ieri una bella partita. Sì, meravigliosa. L'ho sentito, il professor Orsi ha fatto... Ciao Pier. Ciao, di Genoa Samp, l'ho sentito carico, ma del resto insomma era bella. Io chiedo al volo, poi per il corretto, derby, ma il Genoa non può ripartire da quella mezz'ora finale, nel senso che adesso vale tutto. Il Genoa ha enormi problemi da dimostrare ieri. Però quei 20 minuti vogliono dire che la squadra non ha mollato l'allenatore, come si dice Sergio. No, perché io, Pierluigi, io ho detto la stessa cosa. Ho detto in sede di commento finale, ho detto che il Genoa deve ripartire dall'ultima mezz'ora, perché è ovvio che è una situazione brutta, drammatica. Poi c'è una contestazione incredibile, con l'allenatore, con il presidente, tutto quanto, la cartiera del Nord era... però l'ultima mezz'ora è stata... Cioè, se Lazovic non si mangia un gol sul 3-2 a 25 minuti alla fine, la partita si riapre, perché la Samp ha palesato problemi anche di tenuta, di mentalità, cioè di psicologici, no? E quindi deve ripartire da lì. È ovvio che deve cambiare anche qualcosa. Però dall'altra parte ho visto una Sampdoria che sta cominciando ad avere un po' l'aspetto di ciò che vuole Montella dalla squadra. Sì, non gioca sulla falsa riga della Fiorentina. No, ieri è stata molto brava, molto ordinata nell'aspettare il Genoa e gestire le ripartenze, facendosi illuminare da Cassano. Io quando ho uscito Edero ho pensato fosse presto, francamente. Hai pensato fosse presto? Sì, ho pensato fosse presto e forse avrei tolto più Cassano, ti dico la verità, con la stessa attenzione, perché Edero comunque... Anche nel Cassano ha dato un grande contributo dinamico, però c'è il dinamismo, il giocatore d'Air, tanto. Sì. Però non va dimenticato che ha perso un cambio. Cioè, l'uscita al campo di Zessi nel primo tempo ha fatto sì che poi nella ripresa abbia avuto un cambio in meno e secondo me gli sia un po' complicata. È stata benissimo con i movimenti di Cassano, che si è abbassato continuamente per favorire gli esterni. Sì. E poi però nel finale ha fatto un po' fatica a gestire. Ragazzi, io vi chiedo una cosa invece, al di là del derby, perché sono curioso di sapere la vostra opinione, chi rischia di più oggi pomeriggio? L'ho chiesto a voi, lo chiedo a voi, l'ho chiesto anche ai nostri ascoltatori. Oggi vai in ogni tabaccheria, bar, eccetera, cercano di venderti gli ultimi biglietti della lotteria. Ma lo vuole l'ultimo biglietto, l'ultimo giorno, perché non compro il biglietto? No, voglio il biglietto della lotteria. Però voglio sapere oggi chi rischia di staccare il bigliettone tra le grandi. Allora, io penso una cosa, che il dopo Natale è un po' potrebbe essere problematico. Secondo me c'è il trappolone. C'è il trappolone del dopo Natale. Sì. Se fosse dove lo stato, vedi? Io se fosse stato prima di Natale avrei detto che l'Inter rischia. Cioè rischia perché l'Empoli alla fine delle feste quattro partite di seguito ha vinto giocando molto bene. Adesso è logico che è un altro campionato, però per come la vedo io, l'Empoli è ancora la squadra migliore di quelle della seconda fascia. Quindi l'Inter secondo me può rischiare, così come può rischiare secondo me la Fiorentina. Può rischiare la Fiorentina a Palermo? Sì, ma anche la Roma a Chievo però. Insomma, sono partite difficili, per la Roma gli mancano 5 giocatori, non è poco. Diciamo che può essere un turno favorevole alla Juventus, che tra le grandi è con il Napoli è l'unica che gioca in casa. Il Napoli e la Juventus sono le uniche due che giocano in casa, e la Juventus riceve il Verona senza Toni, quindi così, guardandola a 10 minuti dall'inizio, potrebbe essere un turno favorevole alla Juventus. Sì, io penso che Juve e Napoli, con tutto rispetto per il Torino, però insomma Juve e Napoli secondo me anche l'Inter, io credo che sia, come diceva Rando, un vantaggio per l'Inter comunque non affrontare l'Empoli, non averlo affrontato 20 giorni fa, poi magari ritornerà più carico di prima, per carità può succedere, però insomma secondo me è un time out ovviamente involontario che potrebbe aver danneggiato l'Empoli. La Roma rischia oggettivamente, perché la Roma si presenta a Verona con una quantità di riserve e un centrocampo da rivoluzionare, e secondo me anche a Palermo la Fiorentina rischia. Juve, Napoli, Inter le vedo più semplici. Juve, Napoli e Inter le vedi più semplici, quindi sì. Bah, sull'Inter semplice, vediamo più semplice no, ma è chiaro, l'Inter era più difficile delle tre, diciamo che uno deve provare a lanciarsi e dire qualcosa, non sì no, ma questo è chiaro, questo è chiaro. Verona, credo che siano dubbi. Il Napoli penso che non abbia grandi problemi. E l'Inter mi aspetto che faccia la classica partita da Inter del primo girone, del girone d'andata, quindi partita furba e vittoria coricata, però fa magari infatti. Parlando della Juventus, no, mi meraviglierei del fatto che dopo 7 partite che vinci viene il Verona in casa e secchi, cioè... Ma la Juventus di solito non lo fa, Nando. Capota, non è così. Conoscendo la Juventus penso che l'occasione non la perde. Tra l'altro il Verona gli manca Toni, che e Toni è un po' come Pavoletti, ma sapete che Pavoletti quando non gioca col Genova il Genova perde e il Genova non segna, quindi 7 partite non ha giocato, ha perso 7 volte e non ha segnato per 7 volte, e Toni mi sembra un po' sulla falsariga di Pavoletti su col Verona, se non c'è lui diventa complicato. A proposito di queste cose scaramantiche, De Luca tocca corno, nelle 4 partite senza Giorginio il Napoli non l'ha mai vinto, però c'è da dire che queste partite erano nella primissima parte della stagione, quindi forse non era soltanto un discorso legato a Jorginho, ma c'era proprio una squadra che doveva ancora trovare una sua identità. Oggi senza Jorginho è un test ulteriore. Sì, questo è vero, è una statistica, ma anche perché Jorginho è diventato un giocatore estremamente condizionante per il Napoli. Non so se questo sia un bene, però l'intero gioco del Napoli passa attraverso di lui, è uno dei centrocampisti in Europa che tocca il maggior numero di palloni, e queste sono statistiche. Sì. E quindi quando hai un giocatore così, e ti manca, ti viene a mancare un giocatore così, la squadra rischia di perdere un po' i punti di riferimento, o no, Nando? Sì, è vero. Ma poi in questo è stato bravo Sarri, però, perché ci sono allenatori che quando si portano i propri giocatori dalle squadre dove sono stati insistono nel voler giocare in questi insistono nel proprio giocatore, invece ne fanno giocare. Invece Sarri è stato bravo a capire che in questo momento Jorginho dà più garanzie, e si è visto, anche perché Jorginho l'altro anno con Benitez, quando giocavano con i due centrocampisti, non dava ciò che sta dando adesso quando gioca in un centrocampo a tre. Certo, un'ultima cosa, ragazzi, è vero che Garcia, come dice lui, non rischia nulla, che non ha bisogno di conferme da parte della società, che Sabatini gli è vicino, che lo sente tutti i giorni, che non rischia niente anche in caso di sconfitta oggi a Verona con il Chievo, o rimane invece uno dei grandi in bilico? Parlo io? Sì? In bilico, secondo me, profondamente. Credo che la Roma stia facendo di tutto per tenerlo. Cioè, credo Bravo. Che ci siano state già, volendo, delle situazioni e dei presupposti per poterlo mandare via. Non è stato mandato via perché la società, secondo me, fa una scelta di conservazione, perché vuole ripartire l'anno prossimo con un nuovo progetto. Molto difficilmente Garcia sarà a capo della squadra l'anno prossimo, a meno che non faccia un miracolo quest'anno. Quindi, se fa un miracolo quest'anno, ovviamente rimane. Se la situazione dovesse precipitare, però, secondo me finirebbe per rischiare. Ma la filosofia che fino a questo momento ha impedito l'esonero, secondo me, è non cercare un traghettatore adesso. E lo so, però non si può neanche vivere sempre sul filo. Partire l'anno prossimo con Conte, questo si accetterà, certo. O con Spalletti. Questo certo, però non si può neanche vivere sempre sul filo. Cioè, sbagli la partita, no. Rischi. La vinci, vai avanti. Non si può fare sta vita, Nando. Però questa sfiducia parte dalla preparazione. Lo sapete che a Garcia gli hanno cambiato tutta quanta... Sì, la squadra dei preparatori, certo. Quindi facciamoci una domanda: da quando è cominciato il campionato? Cioè, da quando è cominciata la preparazione? Vuol dire che già la grande fiducia su Garcia e sul suo staff non era totale. Non c'era. Quindi è ovvio che poi dopo è un granello di neve che diventa palanca. È ovvio, non fa risultato. La Champions League è arrivata in maniera come tutti abbiamo visto, che però è sempre arrivata. In campionato stenti un po'. È ovvio che poi, come tutti quanti, come nel calcio, le situazioni sono che gli allenatori che pagano. Guardiamo al Milan, è ovvio che se non vinci paghi. Però qui a Roma è abbastanza... esasperata questa cosa, e quindi Garcia, sì. Queste due partite sono per lui fondamentali. Sì, anche Mihajlovic non è in una condizione molto diversa, no, mi state dicendo? Secondo me sì, anche lui, perché il Milan è una squadra che parte notoriamente sempre per vincere. Beh, quest'anno è una follia, però, Nando, dire che il Milan è una squadra competitiva per la vittoria. Lo so, ma vai a dire al presidente che spende 150 milioni e poi dopo. questo è ovvio che è così. È la legge del calcio. Volente o nolente, tu alleni il Milan. E quindi al Milan ci sono delle prerogative che devono essere rispettate. Quando non sono rispettate... Diventa difficile. È molto difficile. Diventa difficile. Grazie, Nando. Buona ciao, giornata, ciao. Buon ciao, campionato. Buona giornata. Ciao, Pierluigi. Ciao, ciao. Ciao. Un'ultima battuta con Pardo. Beh, d'altra parte Berlusconi diceva che Milan partiva per vincere il campionato anche quando non spendeva tutti questi soldi, quindi non è una novità. Ed è oggettivo, e secondo me non l'ha neanche speso male, nel senso che poi comunque quest'anno ha fatto un mercato anche di prospettiva. Certo, guarda, quest'anno il Milan ha fatto un mercato di prospettiva, per cui occorrerebbe pazienza. E la verità però è che la pazienza... dal punto di vista ambientale è difficile chiederla a questa tifoseria e anche a questa stessa società. Non ce l'hanno proprio loro, non ce l'ha lo stesso Berlusconi, perché sono troppi anni che il Milan fatica. Quindi se il Milan vince da una serie di successi clamorosi e quest'estate avesse preso gente come Romagnoli, come Bertacci, per costruire un progetto nuovo, ci poteva anche stare un campionato e una classifica come questa. Il problema è che invece questa classifica si innesta dopo anni già molto molto complicati. Chiaro. Grazie Pier, ci sentiamo domani. Ciao. Ciao Pierluigi Pardo. E noi ci fermiamo invece per il giornale radio, ma torniamo subito dopo. Le partite stanno per iniziare. Signore, che vi dico, passate una bella serata. Lupi sono finiti, forse i tempi cupi. Ciao! Tutti convocati. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale, è vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio, il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Tutti convocati. Corretto quanto avete sentito nel giornale radio, partite iniziate da circa 3 minuti su tutti i campi, tutte sullo 0-0, ma c'è stato un gol annullato al Carpi all'Olimpico contro la Lazio, gol che è stato segnato da Zaccardo in posizione di fuorigioco. Si dice in questi casi millimetrico, ma comunque c'era, dunque nessuna recriminazione nemmeno da parte di Zaccardo. Facciamo invece un salto a San Siro, a Milano è una splendida quanto in attesa giornata di sole. C'è il Milan con il Bologna, sarei curioso anche di capire per cominciare quanti spettatori ci sono. C'è il nostro inviato Dario Ricci, buongiorno Dario. Buongiorno Carlo, siamo al terzo minuto di gioco a San Siro, ancora 0-0 tra Milan e Bologna, spalti non gremitissimi e curva del Milan che preannunciava la contestazione. In effetti i cori ci sono, sì, ma non le bandiere e gli striscioni. Per quanto riguarda le formazioni, Milan che schiera Donnarumma in porta, Abate, Alex, Messes, De Sciglia in difesa, Onda, Montolivo, Bertolacci, Bonaventura a centrocampo, davanti la Niang, Bagga, intanto è proprio De Sciglio che scende sulla sinistra e appoggia a Bonaventura. Bertolacci prova a districarsi a centrocampo ma perde il pallone, riparte il Bologna che già pochi istanti fa, Carlo, con una bella combinazione Giaccherini destro ha provato a punzecchiare la retroguardia milanista. Per quanto riguarda la formazione rosso-blu, una sola novità: Maglietta al centro della difesa a fianco di Gastaldello a posto del Greco Economu. Da segnalare, Carlo, l'autentica ovazione che San Siro ha tributato a Roberto Donadoni, sia quando sono state annunciate le formazioni, sia quando il tecnico del Bologna, ex bandiera rossonera, è entrato in campo. Insomma, un'ovazione certo al Donadoni, grande campione rossonero, Carlo, ma sì, forse anche all'allenatore. Intanto segna la Juventus. Indovina con chi, Dario Ricci? Per me con Dybala. Bravissimo, Dybala su punizione. Dybala su punizione dai 25 metri, spostato sulla destra dell'area di rigore guardando la porta bolognese, magnifico l'arcobaleno di sinistro, perfetto, gol di Dybala all'ottavo minuto, Juventus 1, Verona 0. Sentiamo dopo Dario Ricci, grazie. A dopo Dario Ricci da San Siro. Invece voglio farvi ascoltare, mentre vi monitoro le partite naturalmente, che bella punizione di Dybala, ragazzi. Sinistro liftato, come si dice nel tennis, che va, scavalca la barriera e va ad accarezzare il palo non protetto dal portiere, insaccandosi. Voglio farvi sentire la voce invece del pronosticatissimo, peraltro da noi, uomo del momento in Spagna. Il messaggio mio è ora intentando di lavorare. Lo che sempre voglio dire è questo. El mensaje que voy a tener para mis jugadores es lo mismo y yo creo que es en el trabajo. Un fútbol bonito y yo creo que voy a estar en esta línea. Este es un fútbol ofensivo, equilibrado. Yo creo que lo más importante es este, tener una buena relación con todos. Intanto vi do un'altra notizia di aggiornamento: fuga di Gervinho sulla sinistra e Sadik segna il gol che ha preso posto De Rossi, lo ricordo, infortunato. Segna il gol del vantaggio della Roma a Verona con il Chievo. Dunque, Chievo 0, Roma 1, anche in questo caso ottavo minuto. Ciao Filippo Maria Ricci. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio a lei, Nessuno può dire noi non l'avevamo detto. Lo sapevamo. Io ero stato da lui a trovarlo il 22 novembre, dopo lo 0-4 del Classico. Mm. E gli avevo detto, allora Zinedine, questa prima squadra si avvicina. E lui un po' ha fatto, però poi aveva lasciato intendere che, come dice lui, e l'ha ripetuto anche ieri, nessuno è mai preparato per allenare il Real Madrid. Quindi dice, se nessuno è mai preparato, anch'io che non sono preparato, sono pronto. Questo era il... Però bello quello che ha detto prima, il brano che avete scelto per me è perfetto, quando dice football offensivo di equilibrio. Sì. Ecco, bravo. Sì, bravo. Ci vuole molto capirlo. Senti, ma adesso, sono adesso stati auguri, più auguri Zizou, certamente, ovviamente anche un credito diverso nei confronti dell'ambiente, un carisma differente. Vabbè, ma alla fine sono stati i risultati o è stata la fronda interna a castigare Rafa? Castigare per modo di dire, perché comunque lui va via con grande signorilità e soprattutto con un decello di milioni in tasca. Va bene, infatti, i 10 milioni o quelli che siano vanno sempre bene così, però chiaro che la cosa gli brucia a Rafa, perché il povero Rafa non ha capito fino alla fine quello che stava succedendo. Cioè lui pensava che quando sui giornali, no, spagnoli o italiani se li leggeva, no, dicevano guarda che occhio che stanno per farti fuori, lui pensava fosse tutto un complotto, che non era così, perché del resto Florentino Perez ben 3 volte, come no, nel celebre episodio biblico, aveva detto no, Rafa non si tocca, Rafa non è il problema, è la soluzione, quando in realtà aveva già deciso di farlo fuori. E che lo faccia fuori dopo quella che probabilmente è stata, se non la migliore, una delle migliori prestazioni del Madrid, perché a Valencia il Madrid di 10 ha fatto una bellissima partita. Lo fa fuori in questo momento perché? Perché adesso ci sono 6 partite facili e spera che il Real Madrid si su, prenda aria e che non gli vada in apnea immediatamente, magari con un pareggio sabato. È vero comunque che Rafa sapeva di essere esonerato già prima di scendere in campo a Valencia? No, Rafa ci credeva e come? No, questo è proprio il contrario. No, Rafa pensava di essere abbastanza saldo. E del resto ricordiamoci che Florentino va alla Cadena Ser il 18 dicembre e dice appunto che no, che Rafa non, insomma, rimane l'allenatore, via dicendo. No, lui era sicuro e dopo la partita ancora più sicuro, perché comunque fanno un'ottima prestazione e lui si sente, e tra l'altro poi attenzione, qua siamo già al secondo episodio consecutivo di pessima gestione. Il giorno dell'esonero alle 6, quando praticamente Zidane ha già riunito la famiglia, sono tutti in macchina per andare al Bernabeu, e Benitez non sa ancora nulla dell'esonero. E lo stesso era successo con Ancelotti. Cioè anche il famoso signorio, no? Questa signorilità, questo savoir-faire del Real Madrid è andato veramente a farsi benedire, insomma. Sì. Cioè, li trattano anche molto molto male, oltre a licenziarli e a dargli magari 10 milioni di liquidazione. Senti, però il trattamento umano è pessimo. Comunque ti ripeto la domanda di prima, perché non una risposta secca. Sono stati i risultati o è stata la fronda interna guidata? La fronda interna fuori senza Rafa. Alcun dubbio. E la fronda, perché comunque si vede, vuol dire, quando è andato via Ancelotti, tutti i membri della Rosa hanno postato qualcosa su Instagram, Twitter, Facebook, quello che è. E qui non c'è niente, c'è solo un like, un tristissimo like, mi piace, di Modric a un post di un tifoso che diceva no, però Benitez non doveva essere cacciato. Ecco, cioè, siamo rimasti con un mi piace di Modric e basta, niente altro. I giocatori non l'hanno mai amato, poi non l'hanno neanche più sopportato, però attenzione, il responsabile è sempre Florentino, Sì, certo. Perché Florentino cosa fa? Allora, con Ancelotti c'era, diciamo, la discreta anarchia e da quello, diciamo, derivava anche l'ottimo rapporto di Ancelotti con i giocatori, perché comunque i giocatori avevano, diciamo, un buon margine di manovra, mettiamola così. E arriva Rafa e Florentino gli dice no, dai un po' una stretta qui all'ambiente. Poi nel momento in cui i giocatori vanno a bussare alla porta di Florentino dicono scusa, che succede qua? Com'è adesso tutta questa, no, questa dittatura? Lui va da Rafa e gli dice no, guarda, lasciali stare, va, lasciali tranquilli che è meglio. allora cioè, così anche lavorare diventa molto molto complicato. Questo sull'aspetto esterno, sì, certo. Sull'aspetto tattico. Ma poi sai, non è mai stato gradito dal capobranco, no? Cristiano Ronaldo, ma non si sono mai sopportati fin dal d'accordo, minuto zero. D'accordo, però caro, c'è anche un altro problema. Allora, io lo scrivo sempre, ma se tu c'hai 6 giocatori, no? Dalla cintola in su, che devono giocare, ma sei inutile che cambi allenatore? Cioè, no, adesso Zidane, ieri io lo guardavo e pensavo, dico, ma poveretto. Se no la BBC gioca sicuro, va bene, e la BBC gioca sicuro, dopodiché giocano, no, Modric, Kroos e James, e allora come facciamo a far quadrare questa squadra, a metterla in campo, cioè, perché ci sarà sempre un equilibrio. Per cui questo è il grande problema del Real Madrid, che i giocatori che devono giocare sono quelli, e allora può cambiare l'allenatore, ma il disequilibrio tattico resterà sempre. Allora dove lo trova Zidane l'equilibrio? Mentre vi do anche il gol della Fiorentina, quindi ha segnato la Juventus, ricordo, con il Verona 1-0, gol di Dybala, ha segnato la Roma con Sadiq a Verona con il Chievo 1-0, e anche la terza grande che sta giocando questo pomeriggio, cioè la Fiorentina, è passata in vantaggio a Palermo con il gol dell'ex Idicic, bellissima fuga sulla destra e gol a fil di palo, peraltro sul palo del portiere di Sorrentino. Comunque, dicevamo, dove lo trova l'equilibrio Zidane? Dove lo va a comprare? Per me non lo trova, e questo è esattamente il problema principale. Non l'ha trovato Ancelotti, non l'ha trovato Benitez, comunque sono due allenatori diversi, ma comunque capaci, bravi. E adesso arriva Zizou, va bene, un grande numero 10, ma per me non lo trova l'equilibrio. Proprio questo è il punto. Poi vedremo se sarà così, però per me non lo trova. Beh, vediamo se saprà sfruttare tutto il suo carisma, perché ma sì, cioè, è anche, è anche il credito che ha nei confronti della gente. Ieri, come scrivi tu oggi, 6.000 persone, sì, il 5 di gennaio a vedere il primo allenamento, sì, diretto aspetta, da Zidane. Una cosa però, Carlo, quell'allenamento era già stato programmato come aperto, ed è l'unico all'anno, è normale che ci vadano 6.000 persone. Non c'è stato un coro per normale? Zidane, eh? Non c'è stato un coro? Ni uno, come si dice in Spagna, cioè, nessuno ha cantato per lui, nessuno ha cantato per i giocatori, per cui l'allenamento aperto era già stato dichiarato, ed è normale che ci vadano tra 5.000 e 6.000 persone, perché è l'unica possibilità che hai di andare a vedere la Madrid, ed è un giorno di super festa a Madrid. Ieri c'era la cavalcata, arrivano i Re Magi e tutto quanto, quindi quello è normale, i numeri sono normali, cioè, nessuno ha speso una parola per Zidane tra il pubblico. Quindi dici che la torcida blanca non è così entusiasta di questo? No, va bene, però... Senti, però... ma è vero che è stato leggo oggi sul sito anche della Gazzetta che era stato contattato Mourinho, e che solo dopo il no thank you di Mourinho è stato preso Zidane? Assolutamente vero, cioè Mourinho è stato contattato, dopodiché non è solo che lui ha detto di no, però non erano decisivi, però il contatto c'è stato, assolutamente. Quindi solo dopo la risposta negativa di Mourinho è arrivata quella. Ma perché io ho già scritto, perché ti posso dire la cosa più divertente, forse più surreale di tutto questo, è che Florentino non è convinto da Zidane. Ha già espresso. Cioè, secondo te rischia di essere un traghettatore? No, traghettatore no, perché dopo Zidane non vedo nessuno. Per me è l'ultimo. Io l'ho scritto, è l'ultimo giro di valzer. Cioè, se non va neanche Zidane, non lo so cosa succede a Florentino. Vediamo, io dico, mi piacerebbe dare a tutti appuntamento il 9 marzo, sì, il giorno dopo il ritorno della partita con la Roma. Sì. Chiaro che la Roma è in difficoltà. La Roma teoricamente sulla carta non ha chance con Real Madrid, ma vediamo, no? Una squadra italiana non perde a doppia partita con Real Madrid all'87. Se per caso la Roma butta fuori Real Madrid, poi il 9 marzo ne parliamo, eh? Sì, anche di Florentino, sì, parliamo. Sì, sì, parliamo di tutto questo, Filippo, augurandoci, no, perché... di parlarne, augurandoci, sì, di parlarne. Però in generale io ti dico, questo per Florentino è l'ultima carta, per quello ha aspettato tanto, perché la relazione rotta tra i giocatori è Rafa, è una cosa di luglio, di agosto. Sì, chiaro, chiaro. Non è mai nata, non è mai nata, non è mai nata. Siamo arrivati a gennaio perché questo, perché Zidane è l'ultimo giro di valse, poi sì, può tornare Mourinho, ma a parte che non torna, gli ha già detto di no, perché è chiaro, poi sarebbe una follia far tornare Mourinho, ma dopo, diciamo, what's next? Cioè, non c'è niente dopo. Dopo Zidane il diluvio, dopo Zidane il diluvio, sì, che rischia di portarsi via Florentino Perez. Le deluge in francese, deluge, no? Ciao Phil, grazie. Ciao Filippo Variaricci. Allora, vi aggiorno sui risultati perché è cambiato un altro parziale, è quello di Reggio Emilia, dove il Frosinone è passato in vantaggio, ma deve dire un grazie grande come una casa al portiere Sassuolo Consigli, che si è lasciato scappare con, come fosse una saponetta, un tiro non irresistibile da lontano di Dionisi. Fatto sta che il Frosinone conduce 1-0 sul campo del Sassuolo. Ricordo che la Roma vince 1-0 a Verona con il Chievo, la Juventus vince 1-0 in casa con il Verona, la Fiorentina è passata a Palermo con gol di Idicic. Questi risultati che sono cambiati nel pomeriggio. Non è cambiato il risultato di San Siro, ma torno da un altro Ricci, Dario, per capire come sta andando, com'è il feeling della partita. Carlo, sì, siamo al 18° di gioco, ancora 0-0 e davvero, come registra il tabellino, non è successo nulla, se non però un'unica grande occasione per il Bologna. Al 14° c'è stato Munier, bravo a innescare destro proprio con una triangolazione al limite dell'area, con un solo colpo l'attaccante del Bologna si è portato davanti alla porta e si è liberato di Donnarumma. A quel punto, servendo un assist per la corrente Giaccherini, sembrava gol fatto, in realtà, ma è arrivato provvidenziale il piedone di Alex a salvare la porta a due reti dalla linea bianca. Quindi Bologna vicinissimo al vantaggio, Milan che finora ha costruito nulla, ha ottenuto un paio di calci d'angolo non sfruttati, un Milan a basso regime, direi, che non riesce a velocizzare e neanche a chiudersi con troppa efficacia. Grazie Dario Riccio, a più tardi. Carlo Laudisa, principe del mercato della Gazzetta dello Sport, ciao Carlo. Ciao Carlo, ciao, auguri. Auguri anche a te. Senti, ma già che stiamo parlando di Milan, pareggio del Sassuolo con il Frosinone ed è 1-1, 22esimo. Cosa può cambiare? Dopo lì? La barba dei consigli. Mamma mia, che paperaccia consigli. Roba da oggi le comiche. Cosa può cambiare nel Milan? Boateng e basta? No, oggi abbiamo scritto di questa storia molto invernale di un Fellaini che vuole andare via dallo United, però il prezzo è alto, 20 milioni, quindi bisognerà comunque vendere. C'è anche tutta la muta delle concorrenti, la Juve, la Roma, l'Inter. E può essere questo l'indizio, a mio modo di vedere. Il colpo potrebbe essere quello di Banega, che è certamente un giocatore che sta dimostrando a Siviglia di avere una maturità anche tecnica, che potrebbe fare al caso non solo del Milan. Vedremo. Io credo che comunque sarà un mercato scoppiettante, perché il grande equilibrio, anche se stiamo vedendo in avvio di fa venire appetito, fa venire appetito, Carlo. Sì. Ne parlavamo anche prima con Pardo e con Andrea D'Amico, che ben conosci, e si diceva, si era concordi nel notare come una classifica così corta, la possibilità di giocarsi per tutte le squadre di testa, secondo me Milan escluso ovviamente, le fish sul tavolo dello scudetto, fa venire fame, fa venire voglia di, insomma, di buttare qualche soldo sul tavolo verde del mercato. Quello, e poi ci sarà anche l'ostruzionismo, nel senso che la vicenda di Fellaini, anche per come l'ho appena esposta, conferma che appena c'è un obiettivo, allora si farà in modo anche che l'avversario non si forzi, magari alzando astratamente il valore del giocatore, che era già accaduto in passato, no? Quando era successo con Tevez, fra Inter e Milan, poi la Juve. E è successo anche con Balotelli quando doveva tornare. Insomma, il mercato di gennaio è sempre così. Balotelli resta fino a fine stagione o va via prima? Torna prima? No. Vediamo se appunto poi Klopp lo raccoglierà Liverpool. È presto, questa è una stagione troppo condizionata dall'infortunio del Valgio per Balotelli per dire se ha chance per rimanere. Comunque il Milan in questo momento, poi il risultato di oggi magari potrà condizionare gli umori, ma la spirale in questo momento non induce a grande ottimismo. Sì, ci sono due giocatori che a me piacerebbe vedere cambiare aria, ma non per i rispettivi club, quanto per vederli giocare. Uno, e ne parlavamo anche in questo caso prima, è Rugani, che anche oggi non gioca, gioca a Caceres, nonostante oggi si fosse liberato un posto nella difesa della Juve. E l'altro è Giuseppe Rossi. Per motivi differenti. Io non so se Rugani per vederli alla giocare. Fine... Sì, appunto, se Rugani alla fine andrà via, perché è come all'inizio, però con motivi diversi, si criticava Allegri perché non faceva giocare Dybala, e c'era una spiegazione. Poi Dybala si è confermato il miglior talento di questa stagione, in assoluto, non solo della Juve. E per Rugani è delittuoso che non giochi, e la Juve non può pensare di darlo via. E Giuseppe Rossi è una storia differente, perché effettivamente Giuseppe Rossi in una Fiorentina che va a mille, purtroppo è diventato di troppo. E quindi è bene che vada a giocare. Sì, sono d'accordo. È bene che vada a giocare. Le pretendenti sono sia in Italia che all'estero, giusto? Sì, c'è anche qualche ipotesi estera. Non vedo però un acquirente più determinato di altri. È una situazione un po' strana e antipatica per Giuseppe Rossi, come quella di El Shaarawy, perché anche l'altro certo. caso del mercato è quello di El Shaarawy. Il Monaco non vuole riscattarlo, si parla della Roma, ma la Roma ha anche bloccato Perotti del Genoa. Che se ne fa di tutti quegli esterni, Carlo? E infatti, poi meno male che è arrivato il ragazzino a risolvere i problemi, no? Che sta in questo momento alla Roma, sicuramente è andato via i turbe. Sì. Iago Falchi, abbiamo visto qualche traccia, ma non di più. Il modulo di Garcia prevederebbe un altro esterno, sicuramente, non credo entrambi, non è possibile che la Roma prenda. Guanzoni e Sabatini gioca su più tavoli per scegliere poi la soluzione o migliore o economicamente più conveniente. Certo, questo è chiaro, però rischia di esserci l'overbooking al capitolo esterni alla Roma, dove pure sono la parte centrale del gioco di Garcia. Leggo invece nomi molto interessanti per quanto riguarda il Napoli, a cominciare da Maximovic. Sarebbe il giocatore giusto. C'è André Gomes. Del Valencia, portoghese, e non so se arriveranno entrambi, però è bene che De Laurentiis si stia puntando a un progetto così ambizioso, e che non va solo per lo scudetto di quest'anno, per la lotta, ma proprio in prospettiva, perché sono comunque giocatori giovani, di talento nei ruoli, quindi è un Napoli che certamente, come promesso dal proprietario, in questa tornata vuole dare ancora più fondamenta al palazzo. Sì, dammi una chiusura sull'Inter invece, quali idee hanno? Ma l'Inter, dopo il clamoroso dietrofront su Calleri, vedremo se riuscirà a prendere la Vezzi. Si parla molto di Eder anche, che non dimentichiamolo, sul filo di lana l'Inter il primo settembre scorso l'aveva provato a prendere. Comunque è un... Torniamo al discorso iniziale. L'Inter ha voglia di trovare l'uomo che porti allo scudetto. Sì, certamente sarà molto attiva. Sì. E d'altra parte, prima abbiamo sentito il presidente Ferrero, si parlava di Eder e di Soriano, e lui ha detto: ma io me li terrei tutti, però c'è una clausola recissoria. Se poi il giocatore vuole andare via e c'è qualcuno che paga questa clausola recissoria, qui in passato non ho dato alcun conto perché eri un esperto, così ha detto Ferrero. Morale, la sensazione è che se qualcuno va lì e convince Soriano e paga la clausola recissoria, questo trasferimento si potrebbe fare. Sì, su Soriano c'è quella clausola, quindi non puoi impedirglielo. Quest'estate è saltato perché inizialmente Soriano non era convintissimo di andare al Napoli. Sì. Adesso c'è questo filone. Se André Gomes va al Napoli, molto probabilmente Soriano può andare al Valencia. Altrimenti io non trascurerei l'ipotesi che ritorni la fiammella napoletana per Soriano. Questo è lo scenario, grazie Carlo Laudisa. Sentiamo presto. Ciao Carlone. Ciao, un abbraccio. Allora, siamo alla mezz'ora qua, o quasi, sui campi di Serie A. C'è il Milan che ci prova con Honda e poi con Niang, in entrambi i casi senza grande costrutto. Vi ripeto i parziali, siamo come detto un po' prima della mezz'ora, la Roma sta vincendo 1-0 a Verona con il Chievo, ma sta anche soffrendo molto perché c'è il Chievo che sta facendo un discreto forcing, 1-0 gol di Sadik. La Juventus è passata subito con il Verona in casa dopo 7 minuti, una punizione meravigliosa di Pablo Dybala. Lazio-Carpi è 0-0, ricordo il gol annullato in apertura dopo pochissimi secondi di gioco per fuorigioco al Carpi con Zaccardo. Milan-Bologna è 0-0, la Fiorentina vince 1-0 a Palermo, gol dell'ex Ilicic, e il Sassuolo ha pareggiato con il Frosinone, 1-1 il punteggio. Signori, ci sentiamo domani per tutti i commenti. Tutti convocati naturalmente dopo il GR e l'Europa delle 14. Grazie a Giorgio De Luca, nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti. Arrivederci ragazzi, ciao.